L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, buona Pasqua a tutti. Questa settimana di cosa parliamo? Parliamo del report finale sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici che è stato pubblicato dal terzo gruppo di lavoro della Commissione Intergovernativa sul Clima, l'IPCC, scritto IPCC, commissione che è stata istituita anni fa dall'ONU. Questo è il tema appunto che affronteremo in questa puntata, lo faremo con qualche passaggio di un video molto utile riassunto di questo rapporto che è stato preparato dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha sede in Italia, Lecce, e quindi ne discuteremo con il presidente di Asso Rinnovabili, Agostino Re Rebaudengo. Ma iniziamo dal video. In ordine di apparizione i protagonisti sono Carlo Carraro, che oltre a essere rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia è anche vice chair del gruppo di lavoro dell'IPCC che ha prodotto questo rapporto, e Alessandro Lanza del Centro Euromediterraneo, anche lui sui cambiamenti climatici. La mitigazione è una parola che ha un significato molto esteso e significa semplicemente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Abbiamo di fronte politiche diverse e naturalmente sono politiche che tendono a aumentare l'efficienza dell'uso dell'energia e quindi delle emissioni nel nostro sistema economico, oppure anche a ridurre la carbonizzazione. Produrre un'unità di energia con sempre meno carbonio. Queste politiche possono essere spiegate e articolate in molte misure diverse. Due grandi classi, decarbonizzazione, aumento dell'efficienza, una pluralità di strumenti che devono essere utilizzati tutti, non sono alternativi. Ecco, questo è il tipo di video e lo stile preciso ma informale che troverete e potete ascoltare per intero su www.cmcc.it. Ne ascolteremo comunque un altro passaggio in conclusione di trasmissione. A questo punto però vogliamo dare il benvenuto ad Agostino Re Rebaudengo, come dicevamo, presidente di Asso Rinnovabili, cioè l'associazione che rappresenta produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, fornitori di servizi, tecnologie e componenti in genere della filiera del rinnovabile. Benvenuto. Grazie e a lei e buongiorno a tutti. Dunque, noi la chiamiamo in causa proprio per vedere qual è la situazione italiana e come ci stiamo muovendo noi, però magari possiamo intervenire prima sull'IPCC e su questo rapporto, una sua valutazione su queste raccomandazioni che sono arrivate in settimana. Beh, dunque, intanto il rapporto, come tutti sappiamo, è assolutamente autorevole, ci lavorano 200, hanno lavorato a questo ultimo rapporto 235 scienziati, è diviso in 16 articoli, capitoli, autorevole, che conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, ma in modo direi a questo punto davvero univoco, che c'è un rapporto di causa-effetto molto forte tra l'attività umana e quindi le emissioni che l'attività umana, soprattutto quella industriale, produce e le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici. Ovviamente il documento dà dei suggerimenti nei vari settori, tra cui quello della produzione dell'energia elettrica, che è uno dei principali fattori di emissione e quindi di determinazione dell'innalzamento del clima, e spinge tutti i governi del mondo a introdurre delle politiche molto più aggressive per passare da una produzione energetica basata principalmente sulle fonti fossili a una produzione di energia basata su sistemi che abbiano un impatto di emissioni pari a zero e quindi in particolare delle energie rinnovabili. E tra l'altro i pericoli sono definiti e sono molto molto gravi. Sì, perché viene dato, no, questo obiettivo 2030, diciamo. Esatto. Io devo dire la verità che vedendo un po' come sono andate le cose fino adesso sono anche un po' pessimista, ma Non Ma non credo lei sia perfetto. l'unico, sa. No, No, ma non non ci siamo perfetto, meno mossi. combattivo. No, no, non meno combattivo, e tant'è che anche nei miei auguri di Pasqua ho mandato, diciamo, una forma di uovo con un pirata all'interno, dicendo dobbiamo essere determinati e forse anche un po' pirati per combattere i cambiamenti climatici, per dare un segnale. Cosa intendeva con pirati? Cosa aveva in Ma qui mente? devo dire, nel senso che forse dobbiamo dirlo con maggior aggressività, questo era ovviamente nella comunicazione e nell'energia, non nel modo di fare. Però insomma, ecco, basta buone maniere, diciamo così. Sì, basta buone maniere, basta no, accettare che insomma, chiunque possa dire qualunque cosa senza diciamo controbattere, perché effettivamente rispetto alle, diciamo, alle emissioni e alle energie rinnovabili rispetto alle energie fossili, anche nel nostro paese c'è in questo, diciamo, in quest'ultimo periodo un po' un rigurgito sul fatto che magari sono costate troppo, che gli incentivi gravano sulla bolletta. E che forse abbiamo sbagliato. In realtà, siccome prendiamo sempre a metro di paragone la Germania, noi in Italia abbiamo per ogni kilowattora incentivato di energia da fonte rinnovabile, e ne abbiamo ovviamente prodotta meno che in Germania, abbiamo pagato di meno, quindi in qualche modo siamo stati più virtuosi. Inquinando di meno. Abbiamo due effetti fondamentali, uno sulla salute, e rapporti europei stimano che nella sola Italia l'effetto delle emissioni dia un costo sociale tra gli 8 e i 12 miliardi per malattie e sanità. Dall'altra parte contribuiamo a rallentare, diciamo, gli effetti del cambiamento climatico. E terzo e non ultimo, mi pare che se riusciamo a sviluppare come siamo in grado, diciamo, la produzione di energia da fonte rinnovabile sul nostro territorio, abbiamo una indipendenza energetica dagli altri paesi, e in particolare adesso torna, diciamo, quello che sta succedendo in Ucraina, quello che potrebbe succedere sulle forniture del gas russo, ma ripenso anche alla primavera del Nord Africa. Come no? L'altro pianeta. Eccoci in studio di nuovo in questa puntata. Per ricapitolare, siamo partiti dal report pubblicato in settimana dal terzo gruppo di lavoro della Commissione intergovernativa sul cambiamento climatico, l'IPCC, chiamata dall'ONU a investigare appunto sul clima. Ne stiamo parlando con Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinnovabili. Lei, presidente, poco fa diceva quanto gli investimenti in questo settore ci possano dare più salute, più qualità ambientale, più indipendenza energetica, più ricchezza, ma nei fatti mi pare che anche l'Europa, che pur resta la patria delle rinnovabili, ultimamente sta investendo sempre meno in questo settore. Gli ultimi dati sono molto chiari. Si parla tanto, ma si fa sempre meno. Assolutamente sì, anche l'Europa certamente da una parte presa dalla crisi economica in cui speriamo, diciamo, speriamo presto alcuni segnali ci sono, possa uscire, ha certamente, diciamo, rallentato le politiche, l'introduzione di nuove politiche per aumentare ulteriormente i target. E comunque, diciamo, in questi prossimi 12 mesi si dovranno definire gli obiettivi al 2030. C'è un grande dibattito, perché le grandi utilities che producono da fonti fossili ovviamente cercano di mantenere le loro posizioni, anziché, a mio parere, prendere che lo switch dalle fonti fossili a fonti rinnovabili potrebbe essere una grandissima opportunità anche per loro. E anche in termini che sono, a mio parere, oggi drammaticamente importanti di occupazione, se si fa un ragionamento di quante nuove opportunità nella ricerca, nell'introduzione, poi nella costruzione, nella gestione degli impianti da fonti rinnovabili ci possono essere, rispetto anche dalla inesorabile perdita di qualche posto di lavoro nei settori più tradizionali, penso che non ci siano dubbi su quali dovrebbero essere le scelte, perché è un po' come se noi dicessimo, ma no, non, teniamo i cavalli e le carrozze perché l'introduzione dell'automobile ci porterà, se tornasse Mette in indietro, crisi gli allevatori. Mette in crisi gli allevatori, come possiamo pensare che gli uomini possano perdere il loro rapporto con i cavalli, cose anche dette ai tempi. Quindi dobbiamo, credo, assolutamente avere il coraggio, tutti, anche come opinione pubblica, di capire che il cambio nell'approccio e nella tecnologia di generazione da fonti fossili a fonti rinnovabili è un cambio non solo inesorabile, ma è una grande opportunità. Senta, se la porto un po' più su il suo essere presidente di AssoRinnovabili, come la vede in Italia? Come si sta Diciamo, nel settore in questo momento? dunque, nel settore diciamo in genere della produzione di energia elettrica tutta, e qui mi metto anche diciamo con i colleghi che lavorano nella generazione da fonte fossile, ovviamente, cioè, tutti sentiamo una situazione di grande difficoltà, un po' perché i produttori storici di fonte fossile hanno investito troppo in nuova potenza con turbogas e il caso Sorgenia, in cui credo molti degli ascoltatori hanno letto e sentito, è diciamo una punta dell'iceberg delle problematiche. Perché? Perché le fonti rinnovabili, diciamo, negli ultimi 10 anni sono passati dal soddisfare una domanda dal 20% di 10 anni fa al 33%, quindi un terzo oggi, nell'ultimo anno. Questo, e ci sono stati alcuni momenti in cui, diciamo, le fonti rinnovabili hanno soddisfatto l'intera domanda nel nostro paese, la domenica, in momenti in cui non c'erano grandi consumi. E la seconda questione importante è che la crisi economica, che per l'Italia ha voluto dire negli ultimi anni la perdita di 10 punti di PIL e 25% della produzione industriale, ha fatto scendere i consumi di energia elettrica. Quindi una minore domanda, una crescita comunque delle rinnovabili ha certamente messo molto in crisi il settore della produzione da fonte fossile. E quindi c'è, che è una lobby evidentemente molto, molto importante e Agguerrita potente, anche. E quindi agguerrita, e quindi, come dire, lotta per la vita. E questo è chiarissimo. E dall'altra parte, voglio dire, noi riteniamo, così come sono certo ritiene la maggior parte dell'opinione pubblica del paese, che sia meglio vivere con un'energia elettrica che magari costa qualche punto in più, ma ci sono anche molti sprechi che man mano peraltro si stanno riducendo e che noi abbiamo denunciato nel nostro rapporto, che si può trovare in assorinnovabili.it, la verità sull'energia rinnovabile nel nostro paese, in cui diciamo, in questo rapporto evidenziamo, diciamo, tutte le cose che dovrebbero essere sistemate. Non, la strada è questa, è la necessità di avere, diciamo, un'indipendenza e di avere maggiore salute, io credo siano indiscutibili. Non ha senso tagliare sulla sanità, ridurre l'assistenza quando possiamo far sì che con minore costo non ci sia bisogno di quell'assistenza. E voglio dire, gli studi che non abbiamo fatto noi di parte, ma che sono tutti studi molto seri fatti dall'Unione Europea, lo dimostrano. Sì, anche questo è un altro aspetto, diciamo, stupefacente e un po' sconcertante, che esistono molti studi, come abbiamo iniziato da uno studio, quello dell'IPCC, che è stato negli anni contestato, ma che, come ricordava lei, è basato su carte, su documenti e su numeri di persone che ci hanno lavorato, corposissimi, quindi è difficile, insomma, dire che è manipolato, che non è preciso, che non è così. Ecco, ci sono molti studi nel vostro settore che dimostrano chiaramente cosa si può ottenere e dove si può arrivare, cosa si deve fare, quindi anche lì cerchiamo di diffonderli. Ecco, noi nel nostro piccolo lo facciamo in questa trasmissione, voi lo fate dal vostro sito e immagino in tutte le occasioni possibili, ecco, perché le persone si lasciano un po' troppo manipolare su questi temi. Assolutamente sì, per molti anni abbiamo continuato a leggere che, diciamo, non ci fosse una correlazione tra il tumore ai polmoni e il fumo. Adesso, diciamo, non ci crede più nessuno. Alcuni di questi scienziati che sostenevano che non ci fosse questa relazione tra sigarette e cancro ai polmoni, li abbiamo poi ritrovati, cioè gli stessi nominativi, che firmavano documenti in cui sostenevano la non correlazione tra le emissioni di CO2 e di polveri sottili e i cambiamenti climatici e i danni per la popolazione. Anche questo, mi pare, se mai ce n'è stato bisogno, con quest'ultimo rapporto proprio tutte queste tesi sono definitivamente smascherate, e mi auguro appunto che l'opinione pubblica lo comprenda. Quindi di qui poi oggettivamente c'è da dire, forse sediamoci e capiamo che è meglio, come dire, ridurre la nostra capacità di generazione nelle fonti fossili, anche facendo un piano straordinario di rottamazione, come l'abbiamo fatto per le automobili non catalizzate, come l'abbiamo fatto per gli zuccherifici, come l'abbiamo fatto per le acciaierie, come l'abbiamo fatto per tanti settori all'interno dell'Europa, ma che voglio dire, poi ci porti davvero a ridurre, quindi essere, diciamo, molto conveniente per la salute prima di tutto e per l'indipendenza, di cui io credo l'Italia e l'Europa dal punto di vista energetico abbiano tanto bisogno. Presidente, io la ringrazio. Grazie a lei e buongiorno a tutti. Grazie ancora al presidente Re Baudengo. Chiudiamo con un ultimo frammento del video del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, in cui sta parlando Carlo Carraro, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Come dicevamo, però, è stato anche vice chair del gruppo di lavoro che ha prodotto il rapporto appena pubblicato, di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata. Si parla delle possibilità di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e non è solo una questione ambientale. La questione del cambiamento climatico non è una questione ambientale, è una questione di sviluppo economico ed è una questione quindi che ha a che fare con la povertà, con i bisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, con gli impatti che i cambiamenti climatici avranno soprattutto in questi paesi e di conseguenza con la responsabilità che i paesi sviluppati hanno nei confronti dei problemi che il cambiamento climatico causerà nei paesi in via di sviluppo. Quindi c'è una dimensione etica importante senza la quale non si riesce a intervenire sul problema del cambiamento climatico in modo efficace e soprattutto non si riesce a intervenire sullo sviluppo economico del pianeta in modo efficace. Serve una collaborazione tra paesi che passa anche attraverso l'etica e la responsabilità di chi ha creato il problema. Bene, grazie a tutti, buona Pasqua, risentirci alla prossima settimana. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.